Mix 24 di Giovanni Minoli. C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. Per la prima volta nella storia recente delle rilevazioni statistiche, l'aspettativa di vita degli italiani è diminuita. Lo racconta il rapporto Serva Salute, che oltre a descrivere lo stato di salute degli italiani si occupa anche della qualità della nostra assistenza sanitaria. Roberto Bernabei, direttore dell'area geriatrica del Gemelli di Roma. Ecco, professore, quali sono le cause principali di questo calo nell'aspettativa di vita? Ma attenzione, perché è un calo talmente modesto di 2-3 mesi circa che potrebbe essere anche un errore statistico. Quello che mi interessa è comunque il fatto che per la prima volta c'è uno stop a quello che era un trend inarrestabile, o che sembrava inarrestabile. Ecco, secondo il rapporto però, chi nasce in Trentino può aspettarsi di vivere 4 anni in più di chi nasce e vive in Sicilia o in Campania. Da cosa dipende? Dai soldi. E come si giustifica una disparità così grande nella qualità dell'assistenza sanitaria su base regionale, che però invece è quasi proporzionale? È perché questo, il federalismo sanitario, dovrebbe far riflettere tutti gli italiani, perché siamo partiti tutti uguali e c'è invece un posto dove io non mi andrei a far curare, e probabilmente nemmeno lei, c'è un altro posto in cui invece ci andremo tutti. E qui, perché dipende dalle teste di quelle regioni, punto. Ma quanto conta, al di là di questo, lo stile di vita nella determinazione dell'aspettativa di vita? Ma lo stile di vita conta, nel senso che la genetica, gliel'ho detto altre volte forse, Minoli, la genetica conta il 20%, l'80% te la devi guadagnare, te la devi sudare, te la devi faticare, e quell'80% ti fa longevo perché vivi in un certo modo. Poi però, se c'hai quattrini in più, Trento e Sicilia, quello è stile di vita, quello è anche un po' di fortuna o il Padre Eterno. Ma il rapporto di cui parliamo dice che fumiamo meno, comunque facciamo più sport. Eppure una piccola diminuzione dell'aspettativa c'è stata. Allora? Beh, allora, ragazzi, al mondo ci sono 460.000 centenari. Sa quanti sono i 100 decenni, cioè i super centenari? Sono qualche centinaio, non sono qualche migliaio. Per cui, signori, a un certo punto finisce la corsa. Senta, però lo scorso anno, a proposito di corsa finita, c'è stato un impressionante aumento della mortalità, con 54.000 decessi in più rispetto alle previsioni. Sempre il problema di soldi? No, è un problema che ormai siamo talmente vecchi e che cominciano a morire di più perché sono più vecchi. Ma nel 2015 c'è stato anche però un calo delle vaccinazioni tra gli adulti, con la copertura tra gli over 65 che è scesa dal 70 al 50%, 20% in meno rispetto al 2004-2005. Questo può aver inciso sull'aumento della mortalità? Questo certamente ha inciso un pochetto, non sappiamo bene quanto, ma un po' ha inciso, oltre al fatto appunto che ci sono talmente tanti vecchi che per forza aumentano i numeri della mortalità. La cosa curiosa è che qui, mentre la longevità, abbiamo detto prima, te la devi guadagnare, devi far fatica, le vaccinazioni, che poi non è solo la vaccinazione antinfluenzale, perché anche la vaccinazione antipneumococcica, la vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio, sono, diciamo, gratuite, sono delle forme gratuite di campare di più e campare meglio. Qui gli italiani invece si sono fatti prendere, e qui la responsabilità di chi fa comunicazione, si sono fatti prendere dal famoso scandalo, quello del Fluad, che ha fatto sì che la gente per definizione credesse a tutte le balle sulle vaccinazioni, che le vaccinazioni sono pericolose, che fanno morire, che fanno venire l'autismo nei bambini, coglionate di proporzioni bibliche. Senta, professore, la crisi economica con il relativo calo della capacità di spesa, perché questo, lei ha parlato di soldi, quanto influisce sulla longevità? Qui direi che... Con i farmaci che sono sempre più mirati e costosi. Sì, qui insomma siamo veramente al punto di svolta. è stato facile perché un po' spendevamo allegramente, un po' perché sono cifre che si sono molto fisse, è stato facile tagliare sulla salute, tagliare sul servizio sanitario nazionale. E adesso, visto che insieme al Giappone siamo il paese che comunque produce più centenari, quindi siamo un paese certamente longevo e vecchio, bisogna invertire la tendenza e investire intelligentemente, lì il grande primato della politica, di investire intelligentemente per far sì che questa longevità sia una longevità sana, perché una longevità acciaccata è un disastro non solo per il singolo ma per tutto il sistema. Così poveri da non potersi permettere la medicina, la crisi che ha colpito le famiglie tocca anche un bene essenziale, la salute. Il primo dei nuovi farmaci contro l'epatite C. Guariscono del tutto e costano montagne di quattrini. La sanità è il settore tra i più penalizzati in materia di tagli, accorpamenti, blocco delle assunzioni e riduzione di personale e servizi, e per il quale i cittadini pagano un tributo altissimo, non solo in termini economici. Che c'è? Gola. Gola, a vedere. Faia! Come rossa, fumi? Sì, è meglio. Già litigo dalla mattina alla sera con mio marito che fuma tanto. Ecco, è questo. Vuoi guarì? Sì. Non litiga più con tuo marito. Che devo fare? Compri il pacchetto di sigarette. E li sciacqui? Falli fa lui. Ciao. Lui, farmaci, medico della muta, non li prescriveva, preferiva rimedi antichi. Oggi la situazione però si è ribaltata, perché i medici, i farmaci, li prescrivono, ma sono i pazienti che non li comprano, perché troppo spesso non se li possono permettere. Quindi farmaci troppo cari, popolazione troppo povera, questa sembra essere la situazione degli italiani. C'è chi si indebita per curarsi e c'è chi, ed è in aumento, non si cura e si lascia morire. Il professor Giancarlo Blangiardo, docente di demografia all'Università Bicocca di Milano. Ecco professore, siamo davanti a un fenomeno particolare, sono aumentati i casi di decessi di persone che rinunciano a curarsi per l'impossibilità sostanziale di comprarsi le medicine, delle medicine necessarie. È così? Diciamo che si ha la sensazione che la motivazione legata all'aumento dei morti, che è un dato di fatto oggettivo, sia quella. Possa dipendere da quello. Ecco, lei per primo ha dato l'allarme. Come è arrivato a denunciare questo fenomeno? Come l'ha trovato, diciamo così? Beh, questa è la curiosità scientifica, nel certo. Senso che io, dovendo raccontare la dinamica della popolazione, ho verificato che il saldo naturale, che è nati meno morti, era negativo, ma questo lo sapevamo, certo. Ma era particolarmente negativo. E allora ho cercato di capire, dico, ma sono le nascite o sono le morti? Ebbene, sono entrambi, però in particolare nel 2015 la cosa che è emersa in maniera estremamente strana e abbastanza incomprensibile, inattesa, è stata quella delle morti sono ciò che determina questo forte aumento. Di che numeri stiamo parlando? Allora, l'aumento complessivo che si può stimare per l'anno 2015 è di 65.000 morti in più. Diciamo un 10% circa. In più, ecco, ma c'è un dato in più che mi ha colpito molto, cioè il picco tra gennaio e marzo, quindi il freddo, quello proprio che si cura con le medicine che costano meno, diciamo. La mortalità nel periodo freddo è un classico, così come quando ci sono le sì, ma l'aumento, L'aumento secondo me però la spiegazione è legata anche a, andando indietro di qualche mese, a tutto quel diciamo terrorismo che c'è stato sulle vaccinazioni. Evidentemente la gente non si è vaccinata perché aveva paura, e quando poi è comparsa l'influenza, poi la bronchite, le complicazioni che a certe età possono essere letali, naturalmente c'è stata la conseguenza. Ma si può dire, secondo la sua analisi, che c'è chi muore per un'influenza, per un raffreddore, per una tosse, perché non può comprare neanche l'aspirina, diciamo, sostanzialmente? Temo possa succedere, certo non è ovviamente accettabile, però non dimentichiamoci che di fronte a casi e popolazione o soggetti particolarmente fragili, in fondo basta poco a certa età, e siamo una popolazione che invecchia, quindi la fragilità va crescendo, queste cose possono succedere e rischiano di succedere sempre di più nel tempo. E quindi tagli alla sanità e crisi hanno spaccato sostanzialmente la popolazione in due, chi si può permettere di comprare farmaci quindi curarsi, chi invece non può permetterselo e quindi in certi casi diciamo sostanzialmente quasi si lascia morire oppure muore perché non si può curare. Sì, non drammatizzerei, però, no, però direi che casi di questo genere è possibile ce ne siano stati e spiegano forse una parte, naturalmente, di quell'aumento di mortalità a cui abbiamo assistito. E quindi il nostro welfare scricchiola da questo punto di vista? Temo di sì, temo di sì. Ecco, questo fenomeno naturalmente riguarda una fetta piccola della popolazione, però abbastanza terrificante come, come segnale. Eravamo abituati, insomma, si va per dire abituati, a vittime della crisi di tipo diverso. Adesso questa crisi ammazza anche chi non si può permettere le medicine, Mario. Poi? E poi c'è una cosa che a me colpisce molto, sulla quale almeno io personalmente sto leggendo moltissimo, cercando di capire, che è una dimensione tutta psicologica della contemporaneità di questi tempi. In particolare, e riguardano l'ebbrezza della vertigine, cioè? E cioè l'idea del lasciarsi andare e perire e morire e sparire. E questa cosa qua è contenuta... Che è limitrofa alla depressione. Sì, cioè, è molto vicina alla depressione, poi sprofonda nella depressione, ma secondo me fa parte di un fenomeno ancora tutto da studiare, che è quello dell'essere soli insieme. C'è una frase in inglese che è together alone, no? E riguarda l'esplosione e il bombardamento dell'informazione da una parte, e l'incapacità però di capire la contemporaneità e di dialogare con gli altri, certo. Per cui si sprofonda in una solitudine di cui nessuno si accorge, che riguarda nuove povertà, gente che non vuole più, si vergogna di dire che non ha più reddito e così via, certo. Non cerca aiuto e si lascia e morire, si lascia, ecco, e sono sempre di più, e sì, tu te ne accorgi se, certo, li guardi bene negli occhi. Una chiave psicologica molto interessante, sì. Hai ragione, ma dai tempi della guerra che più o meno non accadeva questo. Stiamo no. tornando indietro, Pietrangelo. Beh, però ai tempi della guerra e nel dopoguerra non c'era, c'era una speranza, non c'era, sì, comunque questa solitudine affollata di cui ha parlato adesso Mario. Certo. La situazione di oggi è quella di una crisi che non solo investe strati di popolazione sempre più ampi, ma adesso per esempio c'è anche una cosiddetta narrazione farlocca, una cosa che mi ha colpito leggendo i giornali in quest'ultimo periodo. Adesso c'è l'invenzione di una nuova cosa che si chiama smart working. Smart working. Sì. È un eufemismo, dovrebbe significare, cioè, quelli che lavorano a casa, cioè, è un eufemismo precari, per dire precario, disoccupati, il predisoccupato. Adesso viene raccontata come se fosse una cosa meravigliosa, sai, avrai più tempo libero. Ma tu sai che è un po' come quando nelle aziende licenziano, così lei potrà mettere a frutto le sue capacità, le sue esperienze. Questo panorama, perché, no, sì, perché l'efficienza, che poi è determinata appunto dalla velocizzazione dei processi industriali, dalla ricerca del profitto, perché devi dare la trimestrale a tutti i costi, vabbè, mo sembro comunista, ma non lo so. No, non c'è pericolo. Insomma, questa cosa qua però spinge a travestire di parole, certo, neutre, fenomeni che in realtà nascondono, in realtà, certo, appunto, terribili. Staccare il rapporto fra le parole e, sì, il loro significato. E il loro significato. E questo, esatto, panorama, comunque, che è un panorama così, è un po' difficile, i farmaci, però possono essere dei sostegni, perché ritorniamo al tema da cui siamo partiti. Paolo Grandnik, che è presidente della Fondazione Banco Farmaceutico. Ecco, loro sono un'organizzazione no profit che si occupa di distribuire gratuitamente i farmaci a chi naturalmente non li può avere. Ecco, Presidente, nel vostro ultimo rapporto sulla donazione dei farmaci avete coniato un termine, povertà sanitaria, a proposito di parole inventate. Che cosa vuol dire povertà sanitaria? Significa una persona che versa in condizioni di povertà economica, ovviamente, certo, a carenza di tutto. In questo caso noi intendiamo proprio le condizioni economicamente svantaggiate che vanno a influire sulla capacità di curarsi, ecco, adeguatamente. Ci dà qualche numero? Cioè, quanto spende una famiglia normale all'anno per i farmaci e quanto una famiglia che possiamo definire povera? C'è una forbice molto alta. La famiglia media italiana spende circa 444 euro l'anno. una famiglia povera ha a disposizione soltanto 69 euro. Accidenti. E questa forbice aumenta? La forbice aumenta più che altro perché, ahimè, aumentano le persone in stato di povertà. Ecco, ma quanti sono gli italiani che hanno rinunciato ad acquistare farmaci e quindi ha rinunciato anche a curarsi per questioni economiche? Si calcola che quasi il 4% degli italiani abbia almeno una volta nell'ultimo anno rinunciato a una cura che gli era necessaria per ragioni economiche. Ecco, le faccio ascoltare un pezzo di un'intervista che ho fatto al ministro Lorenzin che riguarda questo argomento, cioè che riguarda il costo delle medicine per le persone più anziane. Nel nord Europa sono sempre più diffusi i superfarmaci per ultra settantenni, però sono carissimi, quindi chi non può permettersi si deve lasciare morire. Noi andiamo in quella direzione? In Italia assolutamente no, ci siamo opposti a questo anche sul farmaco per l'epatite C. Noi abbiamo una nostra, diciamo, approccio valoriale al tema della salute della persona e dobbiamo preservarla, ma per preservarla ritorniamo a quei famosi 30 miliardi. Ecco, 30 miliardi sono quelli dei risparmi eventuali sulle spese per comprare le siringhe, eccetera. Però in realtà la domanda che io ho fatto al ministro è quella vera, cioè il trend è proprio quello, stiamo andando in quella direzione. Ahimè sì, anche se io sarei prudente a fare paragoni diciamo sfavorevoli all'Italia rispetto ad altre realtà. Per fortuna in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale che funziona, certo, e direi piuttosto efficiente, sì, anche su un panorama mondiale. Assolutamente. Il problema è che c'è un trend mondiale. No, ma però cambiano i farmaci, il costo dei farmaci. Sì, appunto, c'è un trend mondiale che cercando ovviamente di tenere in vita le persone il più possibile e non solo, dargli qualità di vita, va incontro a a dei costi esponenziali. Perché i farmaci della popolazione saltano i budget. Perché i farmaci per quelle cure sono farmaci molto mirati e molto costosi. Sono farmaci innovativi, esatto, per cui il costo delle cure lievita, d'altra parte l'età media aumenta. Per fortuna aumenta, le patologie sono sempre, per cui c'è questa diciamo proprio trend tra il demografico e le cure che è un problema che nessun sistema pubblico sostanzialmente può reggere. Non è, certo, che in Inghilterra se non no, ma infatti meglio, no, non è, non, io non dicevo assolutamente quello, dico il problema è quello, però è quello è del quello. Costo dei farmaci. Ecco, voi siete una realtà che lavora in collaborazione con 1700 enti insediati sul territorio, per fare cosa esattamente? Noi diciamo ci mettiamo al servizio di questi enti che già intercettano e sono il punto di riferimento delle persone, ahimè, che versano in una condizione di dover chiedere aiuto caritatevole, e noi supportiamo gli enti tra questi selezionati e convenzionati con noi, selezionati ovviamente per la loro capacità di avere ambulatori qualitativamente, certo, efficienti ed efficaci e sanitariamente a posto. E noi riforniamo questi punti di assistenza dei farmaci che riusciamo a ottenere chiedendo soprattutto quelli farmaceutiche, cittadini, farmacisti. Insomma, immagino quelli, soprattutto quelli che la gente non può comprarsi, no? Ovvio, prima di tutto quelli diciamo per definizione a pagamento. Certo. Che sembrano banali, però curarsi un raffreddore, un'influenza o una bronchite all'inizio, invece di aspettare di dover andare in ospedale con la polmonite, certo, fa la differenza. Senta, Presidente, dal vostro rapporto emerge che persino le malattie cambiano in base al reddito, cioè i poveri si ammalano diversamente dai ricchi? Questo è un dato che emerge dalle indagini epidemiologiche associate al nostro osservatorio, che pone ai primi posti diciamo le malattie di tipo broncopolmonare, mentre normalmente nella popolazione media le malattie più diffuse sono quelle cardiovascolari. Ovvio che qui si aprono mille discorsi che peraltro sono anche confermati da altre indagini. Sì. Probabilmente ci sono un concomitanza di fattori ambientali, certo. Probabilmente questa gente vive in condizioni più disagiate, certo. Presidente, voi insomma sostituite almeno in parte quello che dovrebbe essere il sistema sanitario, o meglio il sistema farmaceutico? No. Ecco, questo ci tengo. Io non mi sento come un sostituto del sistema sanitario, no. Neanche una stampella. Io credo che proprio per il discorso che facevamo un distributore prima, più sano, diciamo. Ci sia un ruolo per il no profit anche in sanità, sì. Ma fisiologico, con cui anche lo Stato, il Ministro Lorenzin e il Sistema Sanitario Nazionale, che certo mi auguro che abbia sempre più fondi, ma comunque dovrebbe entrare in sinergia. Ma voi quanti italiani aiutate in concreto? Oggi riusciamo a raggiungere ed aiutare circa 500.000 di persone. Mario, abbiamo sentito Gradin, il presidente, sì. Che diceva una cosa interessante: far collaborare il no profit con la sanità pubblica può essere una strada percorribile? Sì, in alcuni posti già questo accade in realtà, ci sono molte associazioni di volontariato che lavorano poi dentro gli ospedali, e l'idea di sostituire il big state, no, con la società, e quindi far fare appunto alla società civile cose che di solito fa anche lo Stato, è una soluzione. Naturalmente non dobbiamo nasconderci una cosa, Giovanni: siamo vecchi. Questo è il tema. Il punto fondamentale è che tre paesi nel mondo, certo. Sono i più vecchi. Certo. Uno è la Germania, uno è il Giappone e l'altro è l'Italia. E a questo problema demografico problema. Ancora non si danno risposte di lungo medio periodo. E poi soprattutto le medicine sono testate su persone più giovani, quindi sì. Si hanno una marea di cosa medicine che è emersa in realtà già nella più nostra volte trasmissione. In altre trasmissioni che abbiamo fatto. Che Pietrangelo, a proposito di vecchi, non vorrei essere cinico, però curare gli anziani non conviene allora, eh? Non è compatibile con la spesa pubblica. Eh? Io cinicamente ti posso dire che l'unico vero affare è quello che si stabilisce in rapporto alla presenza dei vecchi. E quindi noi vecchi siamo destinatari di un ottimo e lucroso affare, e di chi è solo e abbandonato. Però posso dire, il vero guaio qual è che è sparito dall'orizzonte sociale la figura del medico, il medico di famiglia, base, intendo, sì. Il medico che a bordo della sua 500 con la sua borsa per gli strumenti, con lo suo stetoscopio, andava di casa in casa e sapeva essere, certo. Il vero angelo custode di situazioni che adesso, con la sua assenza, hanno determinato l'intasamento dei pronti soccorsi, l'impossibilità della gente di affrontare le giornate e anche la speranza. Una volta c'era il famoso sciroppo di lenzuola che veniva poi accudito, custodito da un medico che sapeva accompagnare generazioni di italiani. Io vorrei conoscere chi è quello che ha tolto il medico di famiglia dalla casa degli italiani. Proprio lo vorrei sapere. Non me lo ricordo io chi è stato. Ecco, ma non è che l'hanno tolto, è cambiata l'Italia. Ma non è cambiata l'Italia, sì, i raffreddori ci sono. Quello sicuro. Restano. Ottavio Davini, che è il direttore di Radiologia delle Molinette di Torino, è autore di un libro, Il prezzo della salute. Ecco, come si fa a morire oggi? Perché non ci si può permettere di comprare delle medicine anche semplici, che un po' naturalmente salvaguardando il sistema sanitario nazionale, però è il problema di cui ci occupiamo oggi. Perché? Perché? Il problema è legato sicuramente al momento di crisi e al fatto che si può trovare di fronte a questo tipo di esigenza. Però è un fatto che sono sempre di più gli italiani che chiedono un prestito per curarsi, per operazioni, farmaci. Sono le voci su cui gli italiani si indebitano di più. C'è qualcosa che non va nel nostro sistema? Assolutamente, questo è un tema serio, perché l'indebolimento molto. Del welfare, che in questo momento di crisi dovrebbe essere proprio uno dei pilastri importanti per garantire la sostenibilità del modello sociale. Il problema è che in questo momento ci sono realtà sanitarie in oggettiva sofferenza per scarsità di risorse, su questo certo. non ci sono dubbi. Ecco, io le do un dato. Nel 2014 la spesa per la sanità privata ha toccato i 33 miliardi, nel 2015 è aumentata ancora del 2%, cioè ci si rivolge alla sanità privata anche a costo di pagare e indebitarsi. E perché? Questo evidentemente perché la sanità pubblica non è in grado di rispondere, ma questo è quello che io in qualche modo nel libro ho anche cercato di segnalare, cioè il fatto che in generale dobbiamo fare uno sforzo culturale collettivo molto impegnativo, che è quello di concentrarci sulle questioni serie che riguardano la nostra salute e quindi sugli interventi efficaci. Ma per essere concreti, scusi dottore, ma per essere concreti, sono i tempi di attesa intanto il problema numero uno della sanità pubblica? Io personalmente sono convinto di no. Il problema è che le liste d'attesa sono interrate da prestazioni a bassissima utilità. Mi faccio un esempio molto concreto. Sì. È dimostrato ormai da moltissimi studi, ma un po' in tutto il mondo, ma in Italia in particolare, che almeno un esame radiologico su tre, io faccio il radiologo, è inutile. È inutile. In medicina è inutile, quello che è inutile è anche quasi inevitabilmente dannoso, perché spesso poi... Inutile, dannoso e costoso. Quindi, esatto. Quindi se noi riuscissimo a ripulire le nostre liste d'attesa, le prestazioni inutili, ma questo confligge con questa idea un po' diffusa che consumare prestazioni migliori la nostra salute. Ma intanto allora in questo senso il decreto appropriatezza è proprio quello che ci voleva, cioè il decreto che chiede di tagliare i ticket per 203 prestazioni sanitarie, però se il medico quando prescrive deve stare attento anche lui, perché se poi non è come diceva lei, è una prescrizione inutile, esatto. Può diventare anche una sanzionabile, oltre che inutile. Sul merito di quel decreto sono perfettamente d'accordo, nel senso che la maggior parte delle indicazioni che ci sono assolutamente dotate di evidenza scientifica. Contesto personalmente, non sono l'unico, il metodo, nel senso che non si può imporre per legge quello che deve essere inevitabilmente quello che dicevo prima, un percorso culturale che coinvolge i medici che dialogano con i pazienti e cerchiamo di riconquistare un po' di fiducia nel sistema spiegando. Però anche i medici scaricano sulla richiesta di esami, sull'eccesso di esami certe volte la loro responsabilità, cioè è un problema, lei dice giustamente, culturale dai due lati, insomma. Assolutamente dai due lati, da una parte il cittadino paziente che è ormai stato portato all'idea che l'iperconsumo, così come in tutti gli altri settori sociali, sia la soluzione per risolvere i propri malanni, e naturalmente non sempre, anzi nella maggior parte dei casi non è così, dall'altra parte i medici e in generale gli operatori sanitari che sono schiacciati spesso da quell'altro fenomeno drammatico che è la medicina difensiva, per cui si tende a condiscendere alle richieste del paziente per evitare qualunque responsabilità. Ecco, nel suo libro Il prezzo della salute lei parla di decrescita in campo sanitario come di una possibile soluzione. Cosa vuol dire decrescita? Faccio un esempio banale. Ecco, per chiudere. Per chiudere l'esempio questo, faccio il radiologo, gli posso dire che la metà della popolazione, se dovesse fare una risonanza magnetica della colonna lombare, avrebbe una qualche alterazione dei dischi vertebrali o addirittura delle ernie di cui non hanno mai avuto conoscenza e che non hanno mai dato disturbi. E se noi facciamo l'esame a tutti troveremo tanti malati che poi dovremo curare. Noi dobbiamo fare gli esami così come dobbiamo curare quelli che malati sono veramente, che hanno veramente dei sintomi. Invece c'è una tendenza diffusa al primo bubù, come dire, rivolgersi immediatamente al sistema pretendendo che il sistema risponda immediatamente, anche a fronte di situazioni che potrebbero invece essere gestite in modo molto meno aggressivo. Per esempio nel caso del mal di schiena ormai è dimostrato da tutti gli studi scientifici internazionali che nelle prime 6 settimane non è necessario fare assolutamente nulla, che nel 90% dei casi rientra. Invece bisogna precipitarsi subito a fare qualcosa. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Angelo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Angelo. Non so se è vero o non è vero, leggendo internet, mi appunto, dica, su determinate aziende farmaceutiche, sì, dicono, non lo so, sì, letto, dica, che dopo una certa età queste cure non fanno più niente. Dopo i 76-77 anni, gli antibiotici, una cosa, o pastiglie per patologie, dicono che non hanno più quella reazione che dovrebbe avere un uomo di una certa età. Non so se è vero o no. Ho capito. No, il problema è leggermente diverso, che le medicine sono testate sulle persone fino a 65 anni. Le grandi aziende farmaceutiche testano fino a 65 anni. Quindi in quel senso poi non si sa l'effetto di quei farmaci. Certamente ci sono farmaci molto mirati e anche molto costosi, come abbiamo detto, che colpiscono e servono a curare le malattie per tutta la vita, insomma finché si campa. Grazie Angelo. E allora Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Arriva un vecchio errore, vuole inseguirmi e incatenarmi e trascinarmi lì davanti ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale. E a chi la dedichi, Pietrangelo, stamattina la canzone? È una descrizione, non è una dedica, anche perché mi faccio tramite di dediche altrui. E arrivando da lontano, oggi in metropolitana, i vetri dei vagoni hanno avuto modo di diventare specchi. Non riuscivano a inghiottire però l'ombra cupa, quella che l'assenza sciupa, del vecchio errore pagato con un soldo di verità. E il vecchio errore se ne sta sempre lì come una croce fra i binari a fermare la corsa. Ha chiamato la luna, ha voluto questo brano da dedicare a Leopardi con una dedica. Impossibile amare l'amore senza un errore. Vabbè. Il mio soldo di verità. Pensa a te. Accidenti Mario, senza errore poi assolutamente, però sì, dai, sta, è ci impossibile, sta. È una grande canzone di Paolo Conte nella versione degli Avion Travel. Pensa a te. Vabbè, vai con la tua bolla Mario. Ok, caro Giovanni, dove gli andiamo? Gli Alphaville stamattina. Andiamo in Giappone, ma in realtà restando in Italia. Ho provato a ricostruire un po' l'agenda della settimana, visto che è un lunedì, e insomma è abbastanza interessante. Intanto oggi escono gli indici della manifattura in Europa e negli Stati Uniti, e sono interessanti quantomeno perché qualche analista dovrà grattarsi la testa per capire, no? Come vanno le valutazioni, come vanno le cose. E stamattina alle 11:30 mi pare Renzi incontra Shinzo Abe, il premier del Giappone, a Palazzo Vecchio, il tuo a Firenze. Mito. Beh, insomma, è uno, un leader interessante anche quando sbaglia. E la cosa da notare è che l'Italia e il Giappone hanno un problema in comune, cioè siamo i paesi più vecchi del mondo insieme alla Germania. Ne abbiamo parlato tante volte, anche oggi. E domani escono dati interessanti ancora per la manifattura, in particolare le vendite nel settore automobilistico negli Stati Uniti, e sono rilevanti per noi perché FCA, cioè il gruppo Fiat, produce in Italia macchine che poi vengono esportate in tutto il mondo, in particolare la Jeep. Quindi ci sono previsioni dati, o no? Ma dovrebbe continuare il trend positivo del mercato, vediamo se rallenta un po' o meno. Speriamo di no, perché il PIL italiano, la produzione industriale è legata alla Jeep. La settimana in ogni caso si annuncia interessante perché poi ci sono un paio di appuntamenti istituzionali, uno importante, ricordo che si vota per il sindaco di Londra, e Merkel e Juncker e i leader europei giovedì saranno a Roma per dare il sindaco di Londra, ed è una votazione molto interessante. Sì, e vediamo come va la sfida, anche perché si riflette poi sul Brexit, insomma, c'è stato lo scandalo di Ken Livingstone, l'ex sindaco di Londra, che è stato accusato di antisemitismo, insomma c'è della roba interessante. E per finire, dicevo, daranno il premio Charlemagne a Papa Francesco questa settimana, glielo consegneranno i leader europei giovedì, insomma. C'è tanta carne roba al fuoco. Vabbè, soprattutto vediamo le previsioni dell'economia, come andranno domani. Speriamo. Salamino. Sassi in bocca, sassi del mare, sassi fatti tappi, insomma, sassi per tenere a freno ciò che non può mai e poi mai sfrenare. Sassi che il mare ha consumato. Oh, allora, Marco Carrai, il più enigmatico tra gli amici di Matteo Renzi, destinato, sai dove destinato? Destinato alla cyber sicurezza, ovvero i servizi segreti, a partire da questa settimana avrà un ruolo caldo, consulente di Palazzo Chigi. Non sarà però uno 00 Marco, avrà tutte le licenze possibili, anche quelle di sali, tabacchi, privative, carte bollate. Non sarà una semplice barba finta, non sarà insomma né Clouseau né neppure un tenente Sheridan, perché ai giornalisti che gli hanno chiesto commenti e notizie, quantomeno da presidente degli aeroporti toscani, lui in un certo senso ha cambiato musica. Ma no. Insomma, quei poveretti volevano sapere qualcosa, quantomeno da presidente degli aeroporti toscani, e lui ha così risposto: non lo sapete come muoiono i pesci? Chiara l'allusione. Ad aprire bocca si finisce tibis e tobis. Questo ha voluto dire, e non è neppure più una battuta su se stesso questa, ma un inciampo del linguaggio. Un atteggiarsi a musica. Nenti viti, nenti saccio. Un atteggiarsi a non vedo, non sento, non parlo. Ora non per fare paragoni, non per fare paragoni, non per fare paragoni, ma Cesare Previti al confronto, quando dichiarò non faremo prigionieri, cosa sembrò? Chi siano non lo so, gli strani ometti blu. Il confronto ai berlusconiani sembravano i puffi, perché manca poco e queste simpaticoni del giglio magico, che sono burloni per carità, lo sottolineiamo, recapiteranno a casa degli importuni pesci incartati all'uso calabrisi. Beh, all'uso calabrisi significa che Luca Brasi dorme coi pesci. E questo, l'avete riconosciuto, era Peter Clemenza nel film Il Padrino. Significano appunto un preciso avviso: andare a dormire con i pesci in fondo al mare, coi sassi in tasca e le pinne di cemento al posto dei piedi. Eppure, eppure, sia destro o sinistra, i pesci devono pur parlare. E quindi un consiglio al dottor Cavaliere Eccellenza Marco Carrai: seguisse l'esempio di Merlino. Bianco e nero, falso e vero, questo il mondo fa girar. Per ogni qua c'è sempre un là, per ogni se c'è sempre un ma. Sì, sì, per ogni su c'è sempre un giù. Sei stato cattivo. No, sono vabbè, i pesci che parlano. Vabbè, si è esibito stamattina. Cattivo sono io. Ma come la giri? Ma un po' troppo. Insomma, vai con la bolla, Mario. Vai. Sì. Allora Mario, una tamarrata clamorosa, sì, che ha messo la guerrera nel mio copione, non va bene questa cosa. Un Ricky Martin, adios, sentite che controlla roba. Controlla la tua colonna sonora, Mario. Cosa pazzesca. Era diventato, senti, un must. Senti che roba. Una cosa tremenda, però in fondo forse ci sta pure bene, perché Puerto Rico, o Porto Rico, come la volete chiamare, per me è uguale, ha fatto crack. Per chi non lo sapesse, l'isola caraibica è territorio americano. È assai divertente la storia nella sua tragicità contabile, perché hanno 70 miliardi di debito, non sono riusciti praticamente a riassestare i conti dello Stato e alla fine non hanno onorato l'altro ieri una scadenza da 389 milioni di dollari e sono andati praticamente sommersi dalla loro euforia contabile che li ha portati appunto poi a fare crack. A Puerto Rico abitano 3,5 milioni di abitanti, sono tutti americani, quindi è interessante, è interessante, no? Naturalmente. Lì si può fallire. Canzoniere. Quando l'urgenza ci costringe a pronunciare il vero, cade la maschera e si appalesa l'uomo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 66, gli sms, pubblicità. Mix 24. Bambini formati per diventare combattenti, utilizzati come scudi umani oppure per attentati suicidi. Il suo ingresso nel bar viene appena notato dai clienti, ma catturato dalla telecamera di sorveglianza. Lui abbassa lo sguardo, si copre il viso con la mano ed il suo detonatore esplode. Un infermiere che abita lì vicino si precipita per prestare i primi soccorsi. Tenta di rianimare un uomo steso a terra con un'enorme lacerazione sul fianco. Non sa ancora chi sia, fino a quando non scopre che addosso ha dei fili e tutto attorno dei bulloni. Capisce, è un kamikaze, è stato un attentato. È la cronaca di un attentato suicida, ma cosa c'è dietro? Dagli anni Ottanta in poi, dalla guerra in Iran, in Iraq, questa filosofia di morte è diventata un fenomeno che coinvolge Libano, Cecenia, Pakistan, Palestina, India e i nostri giorni la guerra santa dell'ISIS. Diverse le motivazioni politiche, religiose, militari che spingono migliaia di combattenti al sacrificio estremo. Uomini, donne e bambini che sacrificano se stessi per uccidere altri esseri umani in nome di una folle ideologia. Martiri e assassini, il corpo che si trasforma in un'arma, il reclutamento, il lavaggio del cervello, il saluto ai compagni, poi il silenzio. Il kamikaze è pronto a morire. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora un'ultima bolla veloce? Sì, sentiamo Gordon. Ma chi ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse male non morirebbe più nessuno. Ecco, noi cerchiamo di non fare come questo signore e seguiamo il consiglio di Gordon Gekko, guardiamo i numeri. E le borse hanno aperto in maniera, con tono ottimistico, diciamo, stamattina. Il problema è che adesso stanno uscendo gli indici manifatturieri, gli indici market, e insomma non sono buoni, perché quelli spagnoli sono in ribasso. Quelli della Turchia, che sono usciti pochi minuti fa pure, vediamo se la borsa continua a crederci oppure no. Insomma, sono un mix di dati che non sono proprio l'ideale per andare avanti. No, va no, bene. No. Per chiudere sentiamo Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per tutti noi. Oggi una canzone per chi non dubita, naviga senza vento, prende un treno e non ritorna. Baustelle, Gli Spietati. Così senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada e non dubitare mai. Salgono sul treno. potertelo spiegare, che filosofo sarei.